Benvenuti a Suoni Paralleli, un programma di approfondimento sulla musica a 360 gradi in onda sulle frequenze di Radio Città Fucico 103.1 FM. Un salotto convivio tra musicisti, addetti ai lavori e non solo, lì volto a soddisfare le curiosità che girano intorno al mondo della musica. Chi vi parla è Antonino Barresi e con me a condurre il nostro viaggio una graditissima e già nota voce di Radio Fucico, Francesca Clementoni. Benvenuta a Suoni Paralleli, Francesca. Grazie, ben trovato. È la seconda volta che ci vediamo, questa è la nostra seconda puntata, la seconda tappa del nostro viaggio. Come va? Come è andata la prima e secondo te? È stato un buon approccio di questi suoni paralleli al concetto di Radio secondo Fucico? Secondo me è andata bene, però sai, l'ultima parola ce l'hanno i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, bisognerebbe interpellare loro e chiedere: allora, com'è andata questa prima puntata? Beh, io direi di interpellarli subito, facendogli ascoltare da subito un po' quello che sono le nostre influenze, quello che è il nostro concept. Un programma, come dicevamo, che parla di nuovi generi musicali, di come si miscelano quelli vecchi sound, un programma che miscela varie correnti musicali e che poi le fa ascoltare parlandone con addetti ai lavori, quindi musicisti e tutti i settori della parte del management, dell'editoria, quindi in questo senso, e anche non addetti ai lavori, quindi non so, a pubblico, come ad esempio a gestori o fonici, diversi insomma settori della musica che confrontano le loro idee, i loro argomenti tra loro, e da qui questo salotto convivio che porta al suono parallelo di cui insomma discuteremo a breve. E con quale suono parallelo cominciamo? Io direi di partire subito con uno tra i producer che ultimamente insomma ci ha abbastanza incuriosito, diciamo, una formazione, un progetto dal titolo Telephone Tel Aviv. Io andrei subito ad ascoltare un TTV che è il loro insomma brano tratto dal disco del 2001, un progetto molto molto interessante che dava a miscelare diverse etnie musicali e soprattutto le nuove influenze che arrivano dalla musica elettronica. Partiamo con Telephone Tel Aviv, benvenuti, questi sono i suoni paralleli. Ora, benvenuti a Suoni Paralleli, un programma di approfondimento sulla musica a 360 gradi in onda sulle frequenze di Radio Città Fucico. Ancora benvenuti, insieme a me, Antonino Barresi alla conduzione, c'è Francesca Clementoni. Buongiorno Francesca, come stai? Allora, tutto bene? Stavamo affrontando un po' un discorso che riguardava i mix delle culture e dei linguaggi all'interno di uno stesso brano, all'interno della nuova musica. È un discorso che sarà un po' il concept e che andremo a trattare con tutti i nostri ospiti. Infatti volevo dirti, come è successo nella prima puntata, la caratteristica di Suoni Paralleli è quella di avere questi ospiti, lo dicevi anche tu nell'introduzione. Chi è l'ospite di oggi? Ospite di oggi sulle frequenze di Radio Città Fucico abbiamo Piero Ricci, operatore del settore management, posso dire in questo senso, in senso generale, no, tour manager. Ciao a tutti, in senso pratico, collaboratore di diverse agenzie che si occupano, diciamo, della realizzazione degli eventi su scala nazionale e non. Ciao Piero, benvenuto a Suoni Paralleli. Ciao Francesca, ciao Anto, ciao a tutti. Noi siamo contenti di averti qui, perché uno dei motivi concept della nostra trasmissione è quello di dialogare con gli operatori del mondo dello spettacolo e non soltanto di chiedere le varie opinioni a quelli che sono di solito i promotori e i, diciamo, creatori dell'arte, come possono essere le classiche interviste che vengono fatte ai musicisti. È bello anche certe volte ampliare il nostro specchio di frequentazioni e sentire anche cosa ne pensano gli operatori che con gli artisti vivono, collaborano. Insomma, io penso che qualcosa ultimamente. Con chi sei? Cioè, dove sei? Ti posso fare subito una domanda? Ultimamente non ti vediamo molto sulle scene bolognesi, in giro per i locali. Sei in giro con qualche grande produzione? Dove ti troviamo, Piero? Allora, ultimamente, iniziamo col dire che ultimamente mi sono occupato della tournée europea di Branduardi, quindi sviluppata nell'arco dell'inverno, insomma, più riprese, ecco. Adesso faremo l'ultima parte, partirà insomma alla fine del mese e ci vedrà in Austria, Belgio, Francia, Germania, insomma toccheremo artista dello spessore internazionale di Branduardi merita assolutamente questo. Come hai trovato la situazione a livello europeo per quello che riguarda l'approccio ai live del pubblico, Piero? Cosa ne pensi? Beh, questo è un discorso lungo. Allora, cioè, da dove lo prendiamo? Io noto una differenza. Allora, sicuramente c'è una differenza culturale nell'ascolto, ecco, nell'usufruire la musica abbiamo degli atteggiamenti diversi, ecco, mettiamola così, e chiaramente questi si riflettono poi anche su chi è operatore del settore, sulla maniera di approcciarci alla situazione culturale in genere, insomma tutto quello che può essere intorno a questo mondo. Secondo me la differenza maggiore è proprio nel pubblico, cioè il pubblico è abituato a, che ne so, a fidarsi dell'operatore del settore, cioè esistono, la differenza maggiore secondo me consiste in questo. In Europa soprattutto esistono dei posti specializzati in un determinato genere che quindi fanno proposte loro, cioè sono loro i primi promoter delle nuove band, delle nuove situazioni, di quello che passa di là. Ricercatori delle nuove tendenze musicali. Loro si fanno veramente dei promotori e mettono una sorta di marchio di fabbrica, ecco, ok? Era un po' come succedeva negli Stati Uniti, che ne so, all'epoca del rock o del rock d'FM, insomma, se uno passava, che ne so, al Marquee era un gruppo di un certo livello, così come il Rainbow per altri generi, insomma, ci sono stati vari posti nel mondo che poi hanno rappresentato per alcuni artisti un po' la visibilità. Pensi che il pubblico sia determinante e in qualche maniera si differenzi da stato e stato? Io direi proprio per aree, forse, più che da stato e stato, cioè il nord dell'Europa ha un atteggiamento, l'Inghilterra un altro, il sud dell'Europa ne è un altro. Quello che posso dire è questo, cioè in molti altri posti non hanno problemi, che ne so, a pagare anche alla cieca, ok? Per esempio questo in Italia non è presente, in Italia si paga solo per l'artista che uno ama, che conosce, va lì, canta le canzoni, cioè è giusto anche così, sia chiaro, cioè ci sono vari livelli, però per esempio quello che vedo mancare in Italia, posti che possono avere o possono darsi quel nome di promotore, cioè un punto di riferimento, prima esistevano, adesso ne vedo molti meno. Cioè la mia esperienza parte negli anni 90, negli anni 90 era ricco di club che in qualche maniera attestavano un gruppo, era arrivato o non arrivato, parlo soprattutto dell'epoca delle band, insomma, in quella reminiscenza delle band degli anni 90, dove esisteva un circuito, cosa che è morta insieme alle band. Il mercato delle band e del live in Italia soffre di una crisi particolare che spesso costringe alcune band a non solo esercitare la loro carriera in altre nazioni, proprio addirittura a produrla, quindi perdiamo anche in produzione artistica. Colgo l'occasione proprio per lanciare il nostro prossimo ascolto, uno degli esempi proprio di come alcune band di matrice italiana, in questo caso si parla della produzione Mop Mop, abbia dovuto far rotta verso Berlino per trovare un ambiente più adeguato a quello che il loro sound voleva sviluppare, che le loro influenze insomma volevano accogliere. Mi fa davvero piacere proporre Mop Mop, questa è Living Beat. Right on. Nice and easy. Questa era Living Beat dei Mop Mop, una delle tante proposte italiane veramente di alto livello che la nostra nazione produce a livello di menti, che poi purtroppo sono a volte in alcuni casi costretti a cambiare aria, quindi a lasciare l'Italia, per poi ci si augura presto essere reinvitati a tornare all'ovile. Siamo qui Suoni Paralleli come Francesca Clementoni e ospite di questa puntata è Mr. Piero Ricci, ancora benvenuto Piero a Suoni Paralleli. Piero Ricci, abbiamo appena detto, collaboratore di diverse produzioni nazionali, diverse agenzie sulla parte del management. Piero, stavamo parlando un attimo prima di lanciare il brano dei Mop Mop, stavamo parlando di quella che era la situazione in Europa. Io adesso vorrei rientrare col concetto in Italia. È vero che il pubblico è molto variegato e, come dici tu, forse ci sono delle aree in Europa su cui gli ascolti e la propensione all'ascolto cambia. Ma volevo chiederti, anche in Italia queste aree, tra virgolette, creano una suddivisione tra il pubblico, oppure l'Italia il pubblico un po' è omogeneo e segue altre tendenze? Cosa ne pensi intanto, da quello che si vede in giro? Grandi Mop Mop, insomma, conosco personalmente, quindi saluto. E allora sì, secondo me c'è una differenziazione per aree, cioè, o almeno per appeal nei confronti di determinati generi piuttosto che altri. Un esempio tipico, che ne so, il nord Europa è affascinato dal death metal, cioè ci sono cose che qui non venderesti neanche alla zia di chi suona, lì fanno migliaia di spettatori, ok? Questa era l'idea. Detto questo, cioè, che prescinde dal genere, sicuramente vedo una predisposizione in genere in altre nazioni che non siano quelle forse del sud Europa, ok? Perché pure la Spagna e la Francia li vedo molto simili a noi in questo. dove è più facile che il pubblico, pur non conoscendo l'artista, paghi un biglietto e gli dia una chance, ok? Io da noi questa cosa non la vedo, se non in determinate aree, tipo quella classica, la lirica, però lì c'è tutto un circuito, un mondo particolare, e quindi, cioè, nel senso, esula un po' dal pop, o se vogliamo dalla musica che non è quella classica, ok, diciamola così, insomma. Pensa che quello che stai dicendo tu si sta espandendo clamorosamente anche nel jazz, che invece il jazz era uno di quegli ambiti, era forse un'isola a parte dove tutti erano disposti, però anche questo secondo me è anche dalla perdita di posti che erano da riferimento, come in Italia succede questo, cioè Bologna soprattutto ha un'esperienza che parte dagli anni 40 forte, delle orchestre jazz che hanno girato il mondo, era stata comunque una capitale in Italia di quel genere lì, se vogliamo. Adesso guardiamo quello che succede oggi a Bologna, la riduzione dei posti dove si suona, fai più fatica a proporre progetti in un posto che comunque non è all'asciutto di questo, anzi, cioè c'è una cultura alle spalle notevole in Italia. Certo, quindi questo può essere un segnale, diciamo, di un malessere che in realtà fa parte un po' di anche il malessere generale del mercato discografico italiano. Sì, in qualche modo, che ancora si sta adattando. Non esistono ambiti dissociati l'uno dall'altro, cioè il mercato va a pari passo con la creazione artistica, con la promozione, con i posti dove andare a suonare, è tutto uno. Se vogliamo dirla, forse uno scarto vero negli ultimi anni è stato dato dalla, non voglio dire scomparsa, però diciamo dall'impoverimento di ruolo delle case discografiche, cioè questo è stato il nocciolo vero della questione, cioè chi fino a ieri pilotava montagne di soldi improvvisamente si è trovato in un mondo diverso, diciamo, dove il mercato andava fatto in maniera diversa, e questo ha influenzato molto. Chiaramente l'avvento dei social ha contribuito a creare questa realtà, bisogna fare i conti con questa nuova realtà. Il problema è la parte che ci fa curiosità a noi, parlo anche a nome dei musicisti, insomma, è proprio capire come gli addetti ai lavori adesso avranno modo di mettersi in discussione proprio in questa nuova realtà. Ci sono vari modi, diciamo, di fare, ed è proprio questi, diciamo, dei punti di forza, bisogna capire bene. Sì, no, diciamo che secondo me avanti. Adesso si vivono alcuni paradossi, ecco, mettiamola così. Cioè, il primo paradosso, per esempio, è che nonostante tutto, cioè nonostante c'è la possibilità di fare dischi a un costo non folle come una volta, ok? Anche ad altissimi livelli, c'è la possibilità di promuoverli con 100.000 canali nuovi, però paradossalmente c'è il problema comunque di nuotare in un mare dove ci sono milioni di pesci, ecco, cioè quel ruolo che c'avevano le case discografiche era lo stesso dei locali che ti parlavo prima, sostanzialmente, cioè quello di pescare dal mucchio qualcuno dove un addetto ai lavori diceva: oh, questo c'ha delle qualità, ragazzi, facciamolo crescere, diamogli tempo. Ok, questa cosa qui non succede più, cioè oggi o sei pronto all'acchitto quando passa il treno, se no è finita, cioè, o almeno hai meno possibilità di una volta, e paradossalmente il moltiplicarsi dei canali di promozione fa sì che tutti li sfruttino, ed è giusto che sia così. Però da operatore del settore, facciamo finta che io sia un discografico, devo sentirmi 3.000 canzoni, cioè, per trovarne una che, cavolo, è un po' più complicato, ecco, forse è più, paradossalmente è più facile lavorare come una volta che te lo vai a sentire dal vivo, mi dici: ma magari questo potrebbe funzionare. Ma perché no, si potrebbe ancora fare. Quindi dicevo, questo paradosso ha generato sì che adesso il live, per esempio, ha un'importanza maggiore di prima, cioè il presenzialismo dell'artista anche in questioni televisive, sui giornali, ha la stessa importanza che fare un bel disco, che azzeccare la canzone, che ne so, mo, passando da un ambito all'altro, cioè dal disco dell'estate pop, il più semplice del mondo, alla cosa più complicata solo per neofiti, però insomma... Mi viene un esempio, così. Fedez Ferragni, insomma, sì. Così è un esempio eclatante, sì, per dire, sì, come lui, oltre che cantare, fare musica, bene, male, può piacere, non piacere, non è questo il discorso, che ma è cambiato il modo. Sì, ha dovuto comunque promuoversi anche attraverso questa telenovela. Sì, no, io non ci vedo. Allora, ok, diciamo fino alla telenovela. La telenovela mi fermo, in verità, però. Diciamo che io non ci trovo niente di male. Il ruolo o la maniera di fare l'artista oggi è sicuramente diverso da 20 anni fa, ma è giusto che sia così, come 20 anni fa lo era diverso rispetto a prima, quindi non ci vedo niente di malato di per sé, cioè, poi chiaramente è l'atteggiamento che uno ha verso queste cose che può essere malato o meno, quindi nel senso non vorrei caricare gli artisti troppo di responsabilità su cose che effettivamente, cioè, se io ho un canale di promozione lo sfrutto come la singola persona che se fa la pagina Facebook descrive le sue cose, cioè è una forma di promozione, se vogliamo, ok? Poi chiaro, io non amo, perché secondo me va a svilire un po' poi la figura proprio dell'artista, cioè quella cosa impoverisce un po' poi quello che fai di buono artisticamente, per me. Però è un mio parere strettamente personale, ok, che esula un po' da operatore del settore. Bene, allora io rientrerei adesso invece, Francesca, su un po' un ascolto di un suono parallelo. Io volevo continuare un po' questa rotta degli italiani che hanno prodotto un Italian International Sound, se così si può definire, un altro degli esponenti che, diciamo, ha colpito la nostra attenzione è Nicola Conte. Andiamo subito ad ascoltare una sua produzione, uno degli artisti italiani che del Sud Italia che ha fatto un gran giro nel tutto il mondo collaborando con diversi musicisti e arrivando a suonare anche su piazze come ad esempio quelle giapponesi, in cui il new jazz italiano è stato, diciamo, approcciato in un nuovo modo e, diciamo, molto apprezzato proprio grazie a queste nostre nuove frecce dell'arco Italian Jazz. Questo è Nicola Conte, lo andiamo ad ascoltare. E benvenuti Suoni Paralleli, un programma di approfondimento sulla musica a 360 gradi, nostra seconda puntata con me, Antonino Barresi, alla conduzione di questo programma, Francesca Clementoni. Abbiamo ospite oggi uno degli operatori del settore spettacolo in Italia, Piero Ricci, tour manager che ha fatto, diciamo, della collaborazione con diversi nomi un po' il suo percorso di tipo professionale. Ne parlavamo prima, Piero, ancora benvenuto a Suoni Paralleli. Ciao a tutti. Ne parlavamo prima della tua collaborazione con lo staff e l'ultima produzione di Branduardi, parlavamo del fatto che, insomma, le tue esperienze non mancano anche con i grandi nomi, ma abbiamo affrontato quello che era il discorso, diciamo, sul live e sullo stato dell'arte in materia di live del, diciamo, dei tour e delle tappe internazionali, non solo nazionali, delle band. Parlavamo però delle piccole band, Piero. Io ti volevo chiedere, detto tra noi, se la stessa situazione che il live vive, insomma, di difficoltà in Italia, come anche un po' in Europa, grazie al fatto di questo pseudo crollo del mercato discografico, del crollo del management in senso più ampio, proprio per l'avvento dei live, se questa situazione, quindi, che si ripercuote sulle band, si ripercuote anche sui nomi più grossi, quindi se la differenza riguarda ad esempio il fatto che la band sia poco famosa rispetto a quella che invece è molto famosa e che invece non ha bisogno di questi numeri. Tu che hai lavorato con tanti grandi, oltre che aver fatto, insomma, aver approcciato con l'underground anche italiano, puoi dire la tua su questo argomento? Allora, vabbè, direi bisogna fare delle distinzioni da prima. Allora, diciamo questo: dal 2009 il mondo discografico è cambiato, il mondo dei live è cambiato. Beh, diciamo che l'anno che si può individuare come l'anno di crisi, cioè che poi in verità nel nostro mondo è arrivato un annetto dopo, perché tu lavori l'anno prima per l'anno dopo, quindi diciamo c'hai dei riflessi, allora, che è un riflesso della crisi economica generale, mondiale, ecco, insomma. Se parliamo nello specifico d'Italia, secondo me quello che è scomparso in generale, ok, per tutti i generi di musica, che sia il pop, quello da piazza, fino ai concerti nei palazzetti o concerti di musica classica alto livello, rassegne, cose così, la scomparsa degli enti, quindi di tanti fondi che prima erano veicolati da varie entità statali, parastatali o anche private agganciate a discorsi di questo genere, e che quindi, insomma, si è sentito, insomma, diciamo un 30% è scomparso un po' con i piani di stabilità, quindi i comuni hanno avuto meno soldi da spendere. In Italia si lavora molto anche su quest'ambito, quindi è rimasto, diciamo, principalmente il privato sul privato. Questo ha fatto sì anche che scomparissero grosse entità, grosse agenzie locali, perché magari agganciati, cioè, come dire, ad amministrazioni, che non c'è niente di male, cioè nel senso che comunque lavoravano tanto con le amministrazioni regionali, comunali, scomparsi fondi, moltissimi non sono stati pagati, pure questo è detto. Cioè, quindi tu mi dici che anche nei nomi grossi, proprio per questa scomparsa questi fondi, c'è stato un sentire la crisi? C'è stata una contrazione generale che chiaramente si è riflessa su tutti, sia i grandi che i piccoli. Allora, la differenza maggiore qual è? Che se parliamo di un grosso artista, bene o male ha un pubblico fideistico spesso, ok, che quindi è disposto, magari, cioè se prima si andava a vedere un concerto, più che ne so, quello di Vasco, Rigabue, ok, per di nomi grandissimi, lo fa ancora, ok, quello lo fa ancora, però magari evita di andarsi a vedere un altro, diciamo, un po' più piccolo o diverso dal suo proprio artista del cuore, perché chiaramente noi lavoriamo sul superfluo. Questa è una cosa che io dico sempre, cioè superfluo fra virgolette, perché l'arte è importante quanto tutto il resto nella vita, però chiaramente se una famiglia, per dire, con due adolescenti prima gli permetteva tre concerti grandi l'anno, parliamo di cifre comunque, insomma, che a un certo punto magari in un budget familiare possono pesare, ecco, mettiamola così, 100 euro, 200 euro lo spostamento, quello che vuoi tu. E adesso sicuramente c'è, cioè, qualcuno in meno se ne fa uno l'anno, ecco. Da lì quindi secondo me si è creata una differenza maggiore, ancora di più, fra piccoli e grandi. Cioè magari io vado a vedere Vascorsi perché è un evento, perché è una cosa gigantesca, perché voglio essere lì, perché quel giorno lì è figo farmi il selfie in mezzo, certo, a 80.000 persone. Perché più che un concerto è un'esperienza. Sì, diventa, esatto, cioè diciamo il polo si è spostato su questo. Cioè adesso tendenzialmente si cerca, almeno per i grossi artisti, di farlo diventare un happening. Cioè non è più proprio un concerto in senso stretto, almeno è presentato come qualcosa che supererà un record, che farà cose del genere, insomma, ecco. Mentre sui piccoli era il discorso che facevo prima, cioè secondo me poi si creano delle differenze, ma che sono sostanziali, cioè tanti spazi si sono ristretti, cioè tanti locali sono scomparsi, tante persone che manteneva in piedi un ambiente non riescono, Franci, più. Però io volevo chiederti, ma corre voce proprio dagli stati generali della musica italiana, sembra che invece la musica indipendente stia in qualche maniera rinascendo grazie ad artisti come ad esempio Bruno Risas, grazie a Zen Circus, grazie allo Stato Sociale di Bologna, insomma c'è diverse realtà dell'indie in Italia che stanno a quanto pare facendo una sorta di controtendenza. Questa è una notizia da poco, insomma sono circa 6 mesi che va avanti questa tendenza. Io volevo sapere da te, Franci, ti è capitato di vedere uno di questi concerti indie? Assolutamente sì. Che ne pensi? Era pieno di gente, vero? A Bologna ne abbiamo visti molti e li abbiamo visti quasi sempre strapieni. Ho visto Brunori, ho visto Mannarino, vabbè, gli Stato Sociale, praticamente sì. Sono questa radio, quindi per sono, forza. Sono d'accordo, mi interessa molto questo discorso, soprattutto per quello che riguarda il mondo degli indipendenti, perché è una vera e propria controtendenza. Da qualche anno si parlava del discorso che faceva con noi Piero Ricci adesso, vale a dire che un po' la crisi del sistema finanziario che supportava le attività culturali italiane era un po', aveva contaminato anche i grossi nomi, oltre che i piccoli locali, insomma c'erano stati dei problemi abbastanza trasversali. In questi ultimi mesi si sta assistendo, diciamo, ad una sorta di rinascita dell'indie. Questo non perché lo diciamo noi operatori, perché lo dice il botteghino, perché sì, questi stanno facendo davvero i sold out in tutta Italia, sono artisti indipendenti. Che ne pensi tu di questo? Io penso che questa cosa sia molto social. Okay. E adesso ve la butto lì così. Okay. Perché queste band, questi gruppi e questi cantanti sono riusciti, pur non avendo il mezzo, diciamo, il grande amplificatore, sono riusciti a creare delle prima piccole, poi medie, poi grandi comunità intorno a loro. Quindi il discorso che faceva lui ritorna esattamente, perché ritorna quella che diventa un'esperienza. Seguire Mannarino è un'esperienza, perché io poi gli parlo su Facebook, lui risponde, perché c'è da dire questo, che risponde su Facebook. No, quindi diventa il mio amico Mannarino, faccio per dire, però posso dirlo. Mi degli dici stati che sociali, il discorso dei social come crea una situazione per cui, diciamo, ci può essere, come diciamo, dal fatto che ci sia stata un'evoluzione della musica digitale, no? Quindi molta della musica adesso viene fruita tramite il computer, chiaramente questo ha messo in discussione tutto il mercato discografico. Nello stesso modo i social stanno influenzando anche questa tendenza al botteghino, dite? Che questi ragazzi che adesso, qua diciamolo, sono ragazzi, riusciti con a interpretare 3000 dischi, se vendi fai 10.000 dischi, se sei in classifica, la verità. Io ho notato questo negli ultimi anni. Allora, passata l'ubriacatura iniziale, cioè, perché io, almeno dalla mia ottica, ok? Perché tantissimi manager e tantissimi promoter locali, chi comprava i concerti, chi organizzava, per 2-3 anni guardava solo YouTube. Cioè, 1 milione di visualizzazioni su YouTube sembrava necessariamente garanzia di cassa, ok? E sembra brutto parlare di soldi sempre, però un po' poi gira in quello, ok? Cioè, invece oggi secondo me c'è una maniera un po' più sana, che è quella che ha appena detto Francesca, cioè che magari io posso seguire un po' più da vicino, sono più raggiungibili, ok? Quella è una cosa bella, cioè il fatto che tu possa parlare direttamente col tuo pubblico, che non necessariamente tu debba passare da un giornale per dire una cosa che pensi lì al momento, cioè io la trovo una cosa positiva, non è negativo quello. Però penso che comunque il social non ti dà garanzia, come di, cioè, e poi in più per me il pubblico che da catturare è quello esterno a quello che tutti i giorni apre la tua pagina. Cioè, per un artista la cosa migliore può essere arrivare in una, per me, arrivare in un ambiente, come dire, almeno aprioristicamente ostile, cioè o non votato a quel genere lì, e comunque fare uno spettacolo, essere convincente, andare via con comunque con un plauso, ok? Che magari non è gente che sente quel genere lì, non si strapperà i capelli a fine serata, però magari dice: oh ragazzi, ho sentito della bella musica, non me la comprerò mai, però è bella. Cioè, insomma, quello per me sarebbe già un successo. Però essendo appunto ragazzi giovani che sono di questa epoca, sono riusciti secondo me a interpretare quello che è il social media marketing. E è vero che la comunità è di quelli che li vanno a sentire e tu vuoi colpire, cioè cogliere gli altri. Però io poi, che appartengo a quella comunità, vado dalla mia amica Maria e gli dico: Maria, oh, c'è sto gruppo che spacca, che vieni, vieni, iscriviti anche tu. È il famoso passaparola di una volta. Ecco, cioè, che adesso si chiama influencer marketing, ma è quella roba, diciamo, lì. Che i numeri sono un po' diversi. Gli artisti giovani sono sicuramente più bravi, guarda, anche dei management forse, a fare comunicazione. Hanno dovuto fare di necessità. No, cioè qualcun altro ha dovuto imparare in corsa. Poi è chiaro, c'è il mestiere che in qualche maniera poi ti aiuta. Però cioè, secondo me non deve girare tutto intorno a quello. Cioè, io vedo una realtà che è ancora importante andare sul posto, suonare, farsi sentire, farsi vedere. 30 anni fa io, cioè, ho avuto esperienze musicali come tanti che poi fanno questo lavoro, e vedendo tante persone che sono cresciute negli anni, quindi io ho iniziato a lavorare con persone che erano semi sconosciute, poi magari sono esplose dopo. L'esperienza è quella che comunque l'andare in giro, l'on the road, suonare dal vivo, fare la famosa promozione porta a porta come si faceva una volta, veramente col disco in mano, che sembra una cosa arcaica detta oggi, ma non è così, secondo me funziona ancora. E questi ragazzi qua, Mannarino, Dente, Brunori, sono l'esempio tipico di sta cosa. Guarda, loro vengono fuori da tantissimi live nell'unico circuito che forse è rimasto, che è quello della cultura alternativa, centri sociali, quindi pure posti non agilissimi spesso per suonare, cioè per fare una proposta musicale degna, per suonare in posti sempre anche al limite, diciamo, tecnicamente. Però ha funzionato, cioè poi c'è il vantaggio dopo forse di questa cosa qua, però sul fatto di costruirsi un contatto diretto col pubblico, secondo me buono, insomma. No, io questo lo davo per scontato il live. Lo davo però, cioè, nel senso, voglio salvare la parte analogica. Ascoltati del discorso, solo no, io lo davo per scontato. Dicevo che insieme a questo hanno unito una grande, perché poi anche di presenza sono disponibili, non disdegnano. Con me sfondi la porta aperta, cioè, secondo me chiunque dovrebbe salutare il suo pubblico, chiunque, perché fa parte, volendo, fa anche parte del lavoro, cioè. Ma come sappiamo non è così scontato. No, assolutamente. Però io dico che secondo me chiunque si dovrebbe fermare a salutare il suo pubblico. Sono d'accordo con te. Volevo proprio a tal proposito, Piero, far sentire uno di quegli artisti che, secondo me, partendo proprio dal mondo indipendente, è arrivato ad approdare al mondo delle major ultimamente anche a Sanremo. Uno di quelli che, se non sbaglio, proprio anche tu hai avuto modo di conoscere dal punto di vista professionale, perché ci hai collaborato. Uno dei nostri amici, perché ci conosciamo anche, vero Franci? Uno degli artisti che viene da un genere abbastanza trasversale. Facciamo ascoltare non solo le produzioni di electro che si mischiano con le correnti della world music su suoni paralleli, ma anche quelle che sono le nuove correnti musicali. Volevo presentare, ci tenevo a fare un vero e proprio super lancio per quest'artista, perché ho molto apprezzato la sua mania e il suo modo di fare rap. Mi è piaciuto il suo approccio e come è passato dal mondo dell'indie, grazie al suo talento, al mondo delle major. Questo brano che vi andiamo a far ascoltare è stato tra l'altro prodotto da un producer bolognese, DJ Detox. Lui è Clementino, questa è Etritolo. Massaggi chi son chi, smoke weed top quality pop shit, flow beats, choi soliti show beats, rime big dick, moby dick, boom beats, more beats, more Clementino al mic, porto tritolo per sto picnic, l'isola di white come dick, fuoco per sto dream team, non te vega slick rick, silly pop ne vivi solo l'ologram, si sto moon ne nir, noi do coloram, siendo base, kiss, no melodram, chiure lindo cielo van, vira camo veno dram. Niente non stare che bomba ieno con sound che zomba sotto con mano una conda vota che mano una bomba rotta per mare e per monte svolta l'indana rotonda sciolta su a Napoli pronta e tritolo nelle strade sulle rampe di skate park e tritolo nelle bassi palazzi e nei beat club e la noce mezzo di che sto facendo qui e sto fumando weed con me e tritolo nelle gemme nelle piazze in selecta. I miei motivi per farlo sono milioni. Lo faccio sì, ma non ne parlo mai nelle canzoni. A volte ti confesso anche i miei incubi peggiori. Ma dovrei cambiare le pasticche, freni inibitori. Non te la bevi più, la storia che non bevo più. Da bambini mischiavamo i detersivi al rum, pochi diversivi al sud. Sei tu che dai miei 12 anni mi sollevi per buttarmi giù. Qualunque sia la via d'uscita, non è il tantra che m'attira, ma la vista che s'appanna quando tutto gira. Garantito che sta merda fa due boom come la tequila, steso sul bancone dietro la famiglia. Sulla luna bevo Jäger, la fortuna è cieca, sì, ma si intravede quando mischio le tragedie nello shaker. C'ho il cannibal flow, Anthony Hopkins, la pillola va giù, bro, Maury Poppins. E tritolo, nelle strade sulle rampe di skate park. E tritolo, nelle bassi palazzi e nei beat club. E la noce mezzodì che sto facendo qui e sto fumando weed con me. E tritolo, nelle gemme, nelle piazze in selecta. Musica per beat fino al basso rango. Suona il continente nero con il passo dell'orango tango. Da quando riempio a Napoli locali o frate e mi chiamano sold out innamorato. Buena siena, chiuso nella pancia della balena come Iona. E gas, crema, tutta questa plancia se l'aria fuori non è buona. E tritolo un goppo beat, viene invaders, montaggi come filmmaker qui bene. Goppo mi, Clementi, baby ci credi e mi vedi sfondo come si freddi. Non ti porta una serata e non va buona. E questo era Clementino e Tritolo, una produzione di uno degli artisti italiani, in questo caso nel ramo rap e hip hop, che è passato da un circuito, diciamo, indipendente ad uno mainstream, con molta facilità, diciamo, nell'ultimo tempo, come segnalavamo stanno facendo anche altri artisti della musica indipendente che stanno producendo sold out di seguito. Insomma, qui a Suoni Paralleli siamo sempre a parlare della musica a 360 gradi. Nel nostro approfondimento con Antonino Barresi alla co-conduzione insieme a Francesca Clementoni e il nostro ospite Piero Ricci. Benvenuto ancora Piero. Senti, stavamo parlando di diverse cose, adesso abbiamo parlato un po' di tutto quello che riguarda il mercato del live. Io ti volevo fare una domanda che faccio a tutti gli ospiti, perché ci tengo anche un po', a prescindere dal fatto che lavoriamo in settori diversi della musica, quindi ad esempio il musicista ha degli ascolti di un tipo, il producer ne avrà degli altri, lo speaker radiofonico ne avrà degli altri, tu nell'ambito della tua attività di promotore di eventi e di tour manager, anche con i grossi nomi, quando sei in giro a lavorare, per dire, ti capita mai per rilassarti di ascoltare qualcosa? Cosa ascolta un addetto ai lavori quando si deve rilassare? Non gliene frega davvero poco, insomma, di quello che lo circonda. Io credo che l'addetto ai lavori, e parlo per tutti, insomma, ascolti quello che gli piace di più, cioè a prescindere. Tu per dire cosa ascolti? Allora, io ascolto molto rock, quello sicuramente, soprattutto 70-80. Romanticamente, insomma, ecco, per rilassarmi io sento quello. Lo so, è un po' vecchio come gusti, però vengo da lì. In generale amo sentire anche cose diverse, cioè nel senso, se mi capita spesso di andare in giro magari nei festival così e scoprire band che non conoscevo assolutamente, perché lontane da me come genere d'ascolto, e poi mi ritrovo a sentirle magari nel viaggio di ritorno, perché mi faccio regalare il disco o me le cerco, insomma, ecco. Quindi sono abbastanza trasversale come ascolti, fortunatamente, ecco, questo è un aspetto che ho da sempre. Poi chiaro, ho delle cose che ascolto per rilassarmi, cioè che ne so, se sono arrabbiato io ascolto gli AC/DC, per esempio, cioè che è una roba un po' scontata. Ah, non ti agiti di più? No, mica, a me fa un effetto fantastico, calmante, cioè che ne so, l'heavy metal per me è un calmante in verità. Cioè che ne so, a 16 anni ascolto queste pitture, il trash, wow, così. Venivi proprio dalla parte mia. Quando sono nero sento quella roba lì, di solito mi rilasso. Il passato, no? Dai, il passato di Piero Ricci. Quindi proprio muro contro muro. Ma poco importa, perché negli anni ho imparato, insomma, a dare una chance a tutti. Devo dire, ho lavorato con artisti di diverso genere, come diceva lui, cioè da Clemente a Branduardi, che ne so, attualmente ci passa un mondo musicale altrettanto validi entrambi, anzi. Però, insomma, vorrei dire questo su Clemente rispetto anche Alexia, a esatto, no, insomma, cioè, ho cambiato, insomma, un po' di generi volendo, ne hai visti tanti. E devo dire poi la cosa che adesso apprezzo molto in un musicista è quanto è musicista poi quando va sul palco, ok? Quella è una grossa discriminante. Cioè io faccio questo lavoro perché amo la musica, insomma, e quindi è una cosa imprescindibile. Adesso penso di avere anche i mezzi per interpretare al meglio forse un artista, cioè ho una visione privilegiata, ho degli ascolti privilegiati, anche un contatto umano che, insomma, completa il quadro volendo, ok? E quindi che dire, io ascolto tantissima musica, cioè quindi non... Adesso a breve so che c'è un concerto pietra miliare, insomma, della corrente che hai appena sostenuto, diciamo che possiamo nominarlo, no? C'è in Italia un ritorno di quelli veramente veramente top top top, li vuoi dire tu, Piero, che hai preso sicuramente i biglietti casualmente, diciamo, questa informazione, il prossimo concerto, diciamo, che andrà a vedere Piero Ricci, che è diventato Viola. No, non mi vergogno affatto, cioè, che non ci no, per l'emozione, no, io sono emozionatissimo. Stiamo parlando del concerto dei Guns N' Roses sì, che stanno per tornare in Italia sul loro cavallo bianco, giustamente una delle sul cavallo bianco non so bene, perché ultimamente mi sembrano più imbarellati che sul cavallo bianco, soprattutto il cantante, però dici che arrivano col 118. Beh, allora c'è questo, io ho visto il Coachella, quindi la prima esibizione loro live, e c'era Xero seduto su un trono e non si è alzato mai durante il concerto, che è stato un po' deludente, però dall'altro c'è un affetto così. Però appena sono tornati in Italia, no, tutti ho comprato lì i biglietti, subito detto, andare per a essere vedere, sicuro di andarmi a vedere. Questa si chiama fan base nel nuovo gergo di social. Ma non lo so, saranno 2-3 le band per cui lo farei al mondo, insomma. Infatti, l'altro paio me li sono visti gratis, quindi è bene così. Quindi diciamo che abbiamo concluso sapendo che l'ascolto di Piero Ricci poi se li va anche a vedere live, e Guns N' Roses è una delle band che possono essere quelle più congeniali. Beh, a proposito di esperienza, torno al discorso che facevamo prima, questa anche, passami il termine, con tutto il rispetto, di riesumazione, condivido. Band, certo, di 20-30 anni fa, che sta avvenendo nell'ultimo paio d'anni, è in incremento. Allora, non so bene da cosa nasca questa operazione revival, se vogliamo resumazione, io sono convinto che sia così, cioè sono state tantissime queste operazioni. Poi molte magari non hanno trovato vittime così tante come altre, però sono operazioni commerciali, questo va detto, ecco. Questa è un'operazione mirata ai quarantenni, proprio palesemente, cioè, quindi ragazzi, facciamo fare una giornata nostalgia, sembra funzioni, perché hai visto le vendite. In generale c'è da dire, sì, questa è una tendenza di non molto tempo in verità, però quello di trasformare alcune band finite nel dimenticatoio, ne parlavamo anche prima, cioè come gli SDC, che secondo me erano già una band nel dimenticatoio negli anni 90 in verità, quindi sono sopravvissuti 25 anni oltre quello che gli avrei dato io, al di là dell'amore personale, ok? Queste sono operazioni che trasformano un concerto in una sorta di evento unico, infatti la tendenza è fare un concerto in quella nazione e basta, cioè il secondo secondo me già non funzionerebbe tanto, nonostante le vendite del primo. Quindi è un po' diverso l'approccio, e questo è mondiale, direi, cioè uno ci va col gusto, sì, di andare a vedere un po' gli zombie, cioè in verità. Ne parlavamo nella puntata precedente. Ecco, sì, cioè è inutile negarlo, cioè c'è un fascino dell'horror in questa cosa. Sì. No, dai, diciamo che adesso, a prescindere dal recupero degli artisti, in realtà è proprio un'operazione a livello culturale che sta facendo ultimamente, che vede il recupero anche di generi musicali. Infatti il prossimo ascolto che introduco adesso, colgo la palla al balzo, è uno delle band che va proprio a miscelare questi vecchi sound. Nella scorsa puntata ci eravamo occupati, Francesca, di Electro Swing con i Caravan Palace, sì, di cui avevamo da poco visto un concerto. Oggi una produzione sempre tedesca che voglio presentare, in questo caso parliamo di Tape 5. Il brano che andiamo ad ascoltare si intitola Bad Boy Good Man. Free. Bene, questa era Tape 5. Abbiamo fatto diversi ascolti, diciamo, oggi, no, vero Franci? Abbiamo ascoltato un po' di producer dal punto di vista italiano, dalle produzioni quindi che riguardavano gli artisti made in italiani, Italy, i cervelli in fuga all'estero. Abbiamo ascoltato qualcosa dei Mop Mop, abbiamo ascoltato qualcosa di Nicola Conte, abbiamo ascoltato anche qualcosa di Clementino a proposito del che discorso sulla musica di indipendente che arriva al mainstream e che ci fa tanto piacere. Che dire, è stato davvero un bel percorso, anche perché abbiamo avuto il punto di vista di uno dei nostri ospiti speciali, che ringraziamo davvero di essere stato con noi a Suoni Paralleli. Grazie mister Piero Ricci. Ciao, grazie a tutti. È stato un piacere, mi auguro che tornerai a trovarci presto. E io, per chiudere questa puntata, dopo aver fatto ascoltare anche delle produzioni abbastanza innovative come adesso Tape 5, no, che vengono dalla Germania, volevo chiudere con una degli artisti che mi hanno più incuriosito ultimamente, proprio perché hanno diverse influenze, un po' rappresentano il concept di questi suoni paralleli di cui tanto ci piace parlare, no Franci? Quanto ti piace la parola concept? La verità è che ne abbiamo ascoltate tante. Adesso l'ultimo brano su cui porgiamo i nostri saluti e il nostro arrivederci alla prossima puntata è di una formazione produzione inglese che si chiama Cinematic Orchestra. Io con questo brano vi saluto, ringrazio il maestro Gino Di Fazio per il coordinamento tecnico e i lanci dei nostri brani, di quello che abbiamo fatto ascoltare. Ringrazio Miss Francesca Clementoni. Io ringrazio te e ringrazio anche la regia, come si chiama in radio. Ok, mister Piero Ricci, ancora grazie. Questa era Suoni. Ciao, grazie a tutti. Questa era Suoni Paralleli. Ci vediamo sabato prossimo alle 13:30 Radio Città Fujiko.